se finirà, chi mi rialzerà dal profondo silenzio che c'è, da queste notti che si imbiancano. È meglio se amore non diventerà. E se finirà, dove me ne andrò? Urlerò dentro la galleria da un treno che non so più dove va. È meglio se amore non diventerà. Quanta strada c'è qui davanti a noi, che questo cerchio non si stringa mai. Tutto cambierà, ci distruggerà. Tu lo sai, cercarsi poi è un'abitudine. Quanta strada c'è qui davanti a noi, se questo amore, amore non diventerà. E se finirà, dimmi che farò. Strapperò i miei vestiti, entrerò nel primo abbraccio che mi capita. È meglio se amore non diventerà. E se finirà, disegnati là sull'asfalto di un sabato che è diventato ormai domenica. È meglio se amore non diventerà. Solitudine, quanta strada c'è qui davanti a noi, se quest'amore, amore non diventerà. Non ci troverà l'inverno che verrà, tra parole che fumano un po' e un cielo sporco sopra gli alberi, a dirci che è un altro fallimento, no. Quanta strada c'è qui davanti a noi, che questo cerchio non si stringa.